Incontri di Gianfranco Fabi. Don't take her for granted. She had a hard time. Don't misunderstand her. Sense Hurricane di J.J. Cale. Con questa canzone iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera ad Ali Reza Arabnia. Buonasera, buonasera. Questa, dopo presentiamo Ali Reza Arabnia, però questa canzone in cui le parole dicono non lo diamo per scontato, è un momento difficile, non giocate con i suoi sentimenti, trattatela dolcemente, è una canzone dedicata a una donna. Ma lei ha scelto questa canzone perché? Perché lo dedico all'azienda. Le aziende sono come donne, devono essere trattate con attenzione, con rispetto, con affetto, con amore, avendo in mente le loro debolezze, le loro difficoltà, il fatto che devono lavorare doppio degli altri per sopravvivere, e giustamente si deve avere molto molta attenzione e considerazione su questo. Ecco, Ali Reza Arabnia, lo avete capito, è un imprenditore di origine persiana, iraniana, come dice il nome, un imprenditore italiano, tra l'altro è cavaliere del lavoro, è stato nominato cavaliere del lavoro dal presidente Napolitano, quindi è anche un imprenditore che ha una grande azienda, un'importante azienda, si chiama Jacob, poi vi spiegherà che cos'è. Allora, come nasce Ali Reza Arabnia, come tutti gli altri persone, nasce appunto in Persia e in Iran, fa i suoi primi passi, studia all'università in Iran. Sì, non tanto università, ho fatto liceo in Iran, dopo servizio militare sono andato in Inghilterra per studiare, e dove ho conosciuto mia moglie, sbanchi di scuola, e da lì... Una moglie italiana, sì. E quindi che ha portato anche, diciamo così, un po' in dote l'inserimento in una impresa che era l'impresa di suo suocero. Sì, non era per scontata, la cosa non era scontata. Dovevamo tornare in Iran, il nostro programma originale era questo, però poi dopo... è arrivata la rivoluzione, è arrivata la guerra, è arrivato tanti problemi, e di conseguenza ho dovuto trovare una soluzione in Europa. E l'azienda di mio suocero era un'azienda formidabile e ho avuto questa offerta con tanto affetto da parte di mio suocero e ho accettato, ho cominciato a lavorare con lui. E quindi ha innanzitutto risanato questa azienda, portata ad alti livelli, poi ha fatto anche ulteriori esperienze all'estero, mi sembra, ho visto il suo curriculum anche in Nigeria. Sì, infatti ho iniziato proprio quando dicevo che non ero in programma a lavorare con mio suocero, perché ho iniziato per un incidente del caso, e c'era da sostituire un direttore finanziario italiano in Nigeria, non c'era nessun altro, sono andato io, lavoro che ho fatto fra virgolette piaciuto, e poi subito amministratore delegato dell'azienda è tornato a casa e per i suoi motivi personali, e non c'era nessun altro che voleva andare lì. A 29 anni mi sono trovato a diventare amministratore delegato di un'azienda, e fortuna ha voluto che, pur avendo tutte le difficoltà locali, difficoltà del paese, dei colpi di stato, insomma tutto quello che succedeva, l'azienda è cresciuta molto, è diventata addirittura più grande dell'azienda italiana, il che mio suocero, visto quello, mi ha chiesto di tornare a casa, di stare con lui. Ecco, quindi è tornato in Italia, ha preso le redini di questa azienda. Era già la Jayco questa azienda? No, io sono tornato in Italia e sono entrato in un'altra azienda del gruppo, dove avevamo un piccolo partecipazione perché avevamo 22% di azioni, però era un'azienda molto malata, da vedere un attimino cosa si poteva fare. E sono entrato in quell'azienda lì che facevano dei tintometri industriali per la carrozzeria. Da lì è partita la mia esperienza italiana, devo dire anche lì all'inizio con molte difficoltà, tutte le cose che facevo venivano fuori sbagliate, non funzionava niente, però con molto molto sforzo e con soprattutto molta molta molta collaborazione da parte dei ragazzi siamo riusciti a venire fuori e abbiamo creato un prodotto che poi dopo è diventato molto di successo, e l'azienda, da un'azienda quasi fallita, è diventata azienda leader del mondo con quota di mercato di quasi 62%. In questo particolare settore, che è quello sempre della verniciatura per auto, delle particolari apparecchiature per la verniciatura? Questa all'inizio era per vernici per autoritocco, cioè quando le macchine hanno incidente si deve riprodurre i colori della macchina, sì, le carrozzerie, e con queste macchine si faceva questo. Però poi a questo si è aggiunto il successo dell'azienda, è stato per il fatto che abbiamo creato una macchina automatica per la linea casa, cioè per edilizia, che ha avuto un successo notevole, che è ancora oggi l'azienda leader mondiale. Possiamo anche fare il nome di queste aziende? Non... No, l'azienda si chiamava Fast, oggi si chiama Fast Fluid, è un'azienda formidabile, fantastica. Io sono via da 12 anni. Che poi avete ceduto quando l'azienda era in... Abbiamo ceduto purtroppo per motivi molto semplici, perché poi c'erano altri azionisti che avevano altre esigenze, altri programmi. L'offerta che era arrivata era troppo importante, non riuscivo a contrabattere io, e sì, ho dovuto accettare questa decisione. Ma sono rimasto in azienda per tre anni e mezzo, e abbiamo portato l'azienda a un livello molto molto importante, non dico quale che era. E poi da quello è nata l'esperienza in Geico, che è l'azienda attuale. L'azienda attuale Geico era un'azienda di famiglia, era madre di tutte le aziende, ma era molto molto in difficoltà, era parte di gruppo Comau Fiat, aveva 3 anni in fila di bilanci in perdita e in una difficoltà terribile anche come morale dell'azienda. Insomma, stavano molto molto male, perché già Fiat stava male in questo quel parliamo periodo. Dell'inizio degli anni 2000? 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, insomma, soprattutto 2003, 4, 5 sono state veramente molto dure. Io non mi sentivo lasciarla questa azienda a morire, perché era a nome di mio suocero, era fatta da persone che mi avevano insegnato tutto, dei dirigenti estremamente importanti, però che erano in difficoltà terribile. Ho lasciato quello che avevo, che era molto comodo, ho ricomprato questa azienda. E da lì è partito dal 2005 la nostra nuova avventura. Una nuova avventura che è stata positiva nei primi anni, fino a quando non è arrivata poi la crisi del 2009. Beh, abbiamo all'inizio 2005 era veramente molto, cioè abbiamo preso metà 2005, e da metà 2005 a fine 2006 è stato molto difficile tutta la ristrutturazione culturale e aziendale e tecnologica e di mercato. Abbiamo lavorato tanto su questi aspetti qua, e dopodiché però è arrivata la crisi, quando dal 2006-2007 ha cominciato a funzionare, poi dal 2008 è arrivata la crisi. Ecco, è arrivata la crisi sicuramente, in crisi dell'industria dell'auto, che è stata particolarmente forte. Geico era specializzata nella produzione ed è ancora specializzata nella produzione di impianti per la verniciatura di auto. Come avete affrontato la crisi immediatamente? L'idea in questi casi, quando le commesse che c'erano vengono ritirate, quando non ci sono più ordini, cosa si fa? Ma prima arriva sudore freddo. Prima non si dorme la notte. Non si dorme la notte, questo sì. Però era un singhiozzo molto importante, diciamo così, molto importante, un piccolo infarto, diciamo così, forse anche un po' un grande infarto, ma su una strada che stavamo già percorrendo. Perché noi, quando nel 2005 abbiamo preso l'azienda, abbiamo fatto un studio di mercato, di capire quali sono esigenze valorizzabili e percepibili valorizzabili nel mercato, e su quello abbiamo cominciato a lavorare su formazione delle persone, abbiamo cominciato su investimenti su tecnologia e su mercati. Cioè, invece di giocare in difesa, no, questo già 2005 abbiamo cominciato, però la strategia poi è rimasta la stessa. Però poi nel 2008, avendo preso tutti questi ordini fantastici, poi 2008 vederli cancellati, ovviamente veniva fuori un nuovo approccio. L'esigenza di ripartire di nuovo. Incontri. She is alone, waiting for you. You are the only thing to help her through. Don't take her for granted. Non lo diamo per scontato. Solo tu puoi aiutarla a superare questi momenti. Sono le parole di Sensitive Kind di J.J. Cale, una canzone che Ali Reza Arabia, che è il nostro ospite di questa sera, ha scelto. Una canzone che parla di una donna, ma che vogliamo dedicare all'azienda, come si guarda l'azienda. Ali Reza Arabia, l'abbiamo detto nella prima parte del programma, di origine persiana, poi ha sposato un'italiana durante i suoi studi a Londra, è stato imprenditore, ha risanato un'azienda e poi ne ha risanata per due volte, possiamo dire, un'altra, che è la Jayco, l'azienda attuale, che è specializzata, è una delle aziende più importanti del mondo nel campo della verniciatura per auto. Abbiamo detto che ha ripreso in mano l'azienda all'inizio degli anni 2000, l'ha appunto portata a crescere, ma poi è arrivata la crisi del 2009, una crisi molto forte nel settore dell'auto, una crisi che però lei ha visto anche come una possibilità di rifondare l'azienda, sperando poi che il mercato prima o poi doveva ripartire, quindi bisognava formare le persone, ridare compattezza all'impresa. Quali sono stati gli obiettivi principali che ha visto nel 2009 per superare questa crisi? Ma noi da agosto 2008 fino a dicembre del 2008, 18 dicembre esattamente, l'ultima cancellazione di ordine, abbiamo avuto tutte queste cancellazioni che erano veramente veramente pesanti. Perché voi eravate fornitori di aziende come General Motors, sì, come Ford, quindi con tutte le aziende più importanti del mondo, e a gennaio 2009, quando siamo rientrati, si vedeva veramente niente, era buio totale. Non si sentiva niente, era una specie di coma quasi del nostro irreversibile. Allora io mi sono messo lì, ho fatto una cosa molto semplice, ho fatto conto di quello che avevo e ho visto che io potevo sopravvivere senza ordini per due anni e mezzo, e poi purtroppo liquidare l'azienda se non arrivava niente. Non era caso di diversificare, perché non c'era nient'altro anche altrove, era semplicemente puntare su quello che avevamo noi in maniera ancora più decisa. Cosa fare, cosa non fare? Ho visto che la strada che stavamo percorrendo, secondo noi, era una strada giusta. Dovevamo investire sulla tecnologia e dovevamo accelerare questi investimenti, perché visto che non avevamo altro lavoro, dicevamo vabbè, adesso è il momento giusto di investire e accelerare. Però per fare questo ci vogliono soldi, e soldi voleva dire che invece di vivere due anni e mezzo dovevamo vivere un anno e mezzo o due anni massimo. Ho parlato con tutti i nostri ragazzi, ho informato che avrei fatto questo, dicendo a tutti tutto, cioè ogni decisione che prendevo informavo tutti, tutta l'azienda, e poi gli dicevo che come erano passi successivi, come potevano essere passi successivi, perché così tutti erano informati di tutto, non c'era niente nascosto. E si è partito dedicando un giorno a settimana a ricerca, sviluppo, impegnando tutta l'azienda, un giorno azienda, una formazione molto molto aggressiva, perché dicevo che se arriverà un lavoro noi saremo più preparati degli altri, perché abbiamo investito di più, abbiamo sia su persone che su mercati che su prodotti, perché intanto avevo mandato anche un gruppo di lavoro di andare a cercare un mercato nuovo, che era Cina ovviamente, e dove prepararci per quando ripartiva il mercato potevamo prendere lavori nuovi. E quindi nuove tecnologie nell'ambito del risparmio energetico, nell'ambito del rispetto ambientale, nell'ambito di tutte queste cose che possono rendere competitivo un prodotto come sì, il vostro. E su questo fronte poi dopo il mercato si è un po' ripreso. Sì, il mercato si è ripreso, anche perché poi la cosa che era molto importante era morale dell'azienda era altissima. Una cosa di cui sono molto orgoglioso di dire, che generalmente nei momenti difficili viene parte brutta della gente, invece da noi è venuto fuori parte molto bella della gente. C'era una solidarietà formidabile, se abbiamo lavorato tutti insieme, anche perché non avevamo licenziato nessuno. È arrivato poi prima opportunità. Quando è arrivato prima opportunità abbiamo vinto, che è stata ovviamente una cosa stupenda, e da lì è partito, è diventato facile, perché poi sono arrivate altre, certo, commesse, e anche abbiamo noi mercati, non solo appunto l'America come quello precedente, ma il Brasile, la Cina, la Turchia, la Russia. Sì, Turchia all'inizio, però i mercati che ci hanno dato molta soddisfazione sono stati India, Cina, Russia e Brasile. Brasile oggi siamo numero uno di gran lungo confronto degli altri stiamo facendo tantissimo. Ecco, ricordiamo, Geico è un'azienda milanese, Cinisello Balsamo, è quasi Milano, però che esporta gran parte della propria produzione e ha anche stabilimenti all'estero. Sì, noi siamo nel 2011 abbiamo fatto un'alleanza, abbiamo creato un'alleanza con un gruppo giapponese con quale siamo nel mondo circa 5.000 persone, con un fatturato circa un giro d'affari di un miliardo e otto, di cui sono mille ingegneri specializzati nella ingegneria nostra, e la Geico ha leadership in tutto il mondo a parte di Giappone e Corea, e di conseguenza ha l'accessibilità a tutti questi 28 paesi e 51 location, 4 stabilimenti che è di gruppo, che noi, dove noi abbiamo una posizione dominante. Ecco, un'azienda appunto che ha ritrovato la propria possibilità di crescere, ecco, viene definita un'azienda olivettiana. Marco Vitale l'ha definita un'azienda olivettiana, cioè un'azienda che guarda molto alla partecipazione delle persone. Lei l'ha detto, quando siamo stati in crisi io ho condiviso con tutti quanti le scelte, una partecipazione che è stata premiata. Chi era in cassa integrazione poi ha avuto i soldi che ha perduto quando l'azienda ha potuto rifare profitti. Quindi un'azienda in cui c'è qualcosa di più che un semplice rapporto tra quello che una volta si chiamava il padrone e l'operaio. Ma guardi, io col discorso, con la vicenda di cassa integrazione, non è un qualcosa che non ne chiamo molto di cui parlare, perché era un debito, è un debito che avevo chiesto ai miei ragazzi, e di conseguenza quando stavo bene e giustamente dovevo dare indietro questo debito con interesse. Ma questo è una cosa. L'altra cosa invece che a me sta molto a cuore è di lavorare continuamente a migliorare l'ambiente lavorativo e lo stato di salute dei nostri ragazzi, creare un ambiente molto sano, molto stimolante e molto anche piacevole dove lavorare. Abbiamo dedicato un'area importante all'azienda che si chiama Giardini di Pensiero di Laura, è dedicato a mia moglie, per i nostri ragazzi, dove c'è un bellissimo ristorante che cucinano ogni giorno come si deve, c'è un bellissimo palestra, c'è un bellissimo giardino dove si può sedersi a meditare, pensare o sentire musica, c'è un teatro dove ogni 6 settimane invitiamo delle persone esterne di parlare di questioni culturali che non hanno niente a vedere con noi. Questo soprattutto perché noi, essendo un'azienda di ingegneria, abbiamo la parte sinistra del cervello molto sviluppato, ma la parte destra ha bisogno di un po' di stimolo per portare un po' di affetto e motivazione. E poi c'è anche una zona, una galleria dove facciamo esposizione delle fotografie, dei dipinti, di cose quindi di vari tipi. Il lavoratore visto nella sua integralità come persona, questo significa un po' l'esperienza della vostra azienda, che si può puntare sui giovani e che si può puntare sulle tecnologie. L'Italia può essere un paese in cui ci sono alte tecnologie e in cui i giovani possono avere un futuro. Ma guardi, io Italia non lo dico sempre, non lo dico da un emigrato che vuole farsi amare da paese dov'è, ma veramente lo dico con cuore in mano. Io ho vissuto e studiato, ho avuto l'azienda o aziende dappertutto nel mondo, però un paese come Italia non esiste. Sono persone formidabili, giovani incredibili, cervello estremamente estremamente interessante, con molte ma molte fantasie. Certo, non puoi snaturare questo cervello con metodi tedeschi, cioè devi stare attento di utilizzare dei metodi che possono essere non perdere questa fantasia, però il metodo è creare metodi adeguati a questo tipo di persone che noi abbiamo headquarter del mondo qua in Cinisello Balsamo, che voi a Milano lo chiamate, vabbè, Cinisello è parte di Milano. Beh, per voi Milano è la periferia. Quelli della Brianza ci chiamano Sud Brianza. Insomma, ormai siamo un bambino orfano che non ha né genitori niente, però comunque ad avere a Cinisello Balsamo il centro più innovativo del mondo nel nostro settore non è una cosa indifferente, e questo grazie agli italiani che sono nell'azienda, e non solo italiani nell'azienda ma anche indotto italiano. Questo per quello che riguarda cervello italiano. Per quello che riguarda i giovani, guardi, su questo io tanto poco voglio parlare della vicenda di cassa integrazione, perché era un debito. Mi piace molto invece il mio investimento che sto facendo sui giovani, perché io penso che ogni imprenditore deve sentire responsabilità sociale. Non è una cosa da scrivere su un libro e mandarlo in giro come responsabilità sociale, ma deve veramente sentirlo, e io l'ho sentito quando ho sentito che avevamo 43% di disoccupazione giovanile, di cui saranno 20% perché lavorano nero o non hanno voglia di lavorare. Ma ma 23% sono vere, tante, certo. E quei 23% sono tante. E sono persone. Persone. E io ho creato questo progetto che si chiama J-Next, cioè Nuova Generazione di Jayco, e ho creato, ogni anno prendo 5 ragazzi fino a 20 persone, e questi ragazzi vengono da noi con contratto a stage pagati, poi per vedere la loro attitudine, il loro modo di essere e così via. Dopo 6 mesi gli facciamo un contratto di tempo determinato per un anno, li mandiamo in giro del mondo facendoli vedere di tutto, perché così capiamo se non si spaventano a viaggiare, mangiare è strano, il condizionamento da fidanzati e così via. Se sono ragazzi seri, si impegnano, gli facciamo contratto a tempo indeterminato, non guardiamo legge cosa dice che possiamo andare avanti per 6 anni compagnia bella, gli facciamo contratto in tempo indeterminato. Perché? Perché così possono andare nelle banche, prendere mutuo e crearsi famiglia, comprarsi la casa, macchina, quello che sia. Questi ragazzi, qualcuno andrà via, ma se abbiamo fatto in maniera sinceramente, in maniera disinteressata, non dobbiamo arrabbiarci perché vanno via. E se rimangono, creano una generazione nuova per la Jayco. Questo mezzo milione all'anno di costi in più che potremo avere non cambia economia della nostra azienda, però cambia 20 vite e loro famiglie e loro indotti. Ed è un grande investimento sulle persone, in fondo, che è quello che conta di più. È un ripagare un qualcosa che ho avuto da Italia. Cioè, a questo paese si deve fare le cose in maniera concreta per poter fargli vedere che esiste a questi giovani, che esistono anche aziende che gli danno spazio. Non devono dire dove andare, in Australia, in Canada. Certo. Non so cosa di così. Questo è un paese che per loro è molto importante. Grazie a Ali Reza Ravdia di essere stato con noi, presidente di Jayco, una delle aziende più importanti nel settore dell'impiantistica per gli automobili. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie anche a quanti ci hanno ascoltato. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.